Allora, siamo arrivati alla pagina 15a, Tet Vav Amud Alef, nella Mishnah. Siamo arrivati alla Mishnah, che è la seconda Mishnah di questo capitolo nella Gemara. La Mishnah dice qualche halakha riguardo alla maniera specifica di leggere lo Shema, si lega anche ad alcuni punti che abbiamo già visto nella Gemara, che analizzava la Mishnah precedente. Vediamo cosa dice la Mishnah. Hakore et Shema, colui che legge lo Shema, però lo legge in silenzio, quindi dice la Mishnah, velo hishmia le osno, se sentite bene la parola hishmia, trovate dentro la parola Shema, non se lo fece sentire al proprio orecchio, cioè lui legge lo Shema, ma a voce bassa, molto bassa, che lui stesso non sente quanto sta leggendo. La questione che si pone davanti ai maestri della Mishnah è se questa persona è uscita all'obbligo della lettura dello Shema, la mitzvah della lettura, o meno. E la Mishnah dice, Yatza, esce l'obbligo della lettura. Subito la Mishnah cita una opinione diversa. Rabbi Yosè dice, è dell'opinione, lo yatzah, che non esce l'obbligo, e la Gemara tra qualche momento spiegherà la motivazione di questa discussione. Quindi il primo caso della Mishnah è se una volta abbiamo letto lo Shema, ma non abbiamo sentito noi stessi quanto abbiamo letto, se comunque si è usciti l'obbligo della mitzvah. Il Tana Kama, cioè il primo maestro della Mishnah, che non è citato per nome, è dell'opinione che esce l'obbligo, e il secondo Tana della Mishnah, che in questo caso era Rabbi Yosè, è dell'opinione che esce l'obbligo. Scusate, il contrario. Il primo Tana che esce d'obbligo, Rabbi Yosè dice lo yatzah, non esce l'obbligo. Secondo caso della Mishnah. Kara, se uno ha letto, sempre parliamo dello Shema, ha letto lo Shema, ve lo dikdek beotiyoteha. Abbiamo studiato in precedenza che bisogna fare precisione, fare attenzione all'esattezza delle lettere e le parole dello Shema, che vanno lette con precisione queste parole, per non fare un errore che possa sembrare una parola diversa. Ho un significato diverso, ci sono parole che possono sembrare unite se non si scandiscano bene, si scandiscono bene nella loro maniera chiara. Allora, se qualcuno appunto dice la Mishnah, ha letto, ma non ha fatto precisione nella lettura, non ha scandito, non ha fatto attenzione a scandire benissimo le parole. E appunto la Mishnah già con questo ci vuole insegnare che, come dicevo, bisogna fare attenzione, bisognerebbe fare attenzione. Se c'è una parola, una lettera con dagesh, che deve essere sottolineata, va sottolineata. Il contrario, non va sottolineata. O se una, come dicevo prima, una lettera potrebbe ingoiare un'altra, come velimadetem o tam. Se non si fa bene scandire velimadetem o tam. La prima lettera di Otam, la Aleph, che è quasi muta, si perde nella Mem della parola precedente. Quindi, Velim Atem Otam, viene fuori un'altra parola. Potrebbe anche avere un altro significato. Quindi scandendo bene. Esattamente. Vehara Af, non Veharaf, che vuol dire un'altra cosa, eccetera. Ci sono tantissimi esempi che si fanno nell'Alakha, e qualcosa l'abbiamo già menzionato prima, quando abbiamo studiato poi l'Alakha, l'abbiamo visto nel Kitzur Shulchan Aruch. Anche quando una lettera conclusiva di una parola è la stessa lettera che inizia la prossima, come al levavecha, che sono due lamed, al levavecha, e così via. Se una persona non ha fatto questo, ha letto lo Shema, ma non ha fatto con precisione, qual è l'alaha? La Mishnah dice, torniamo a vedere il testo della Mishnah, Rabbi Yosè Omer, in questo caso Rabbi Yosè dice Yatzah, esce l'obbligo. Nel caso non avesse sentito le proprie parole, Rabbi Yosef dice non esce l'obbligo nel caso precedente. In questo caso che ha letto, ma ha sentito le parole, ma non le ha precisate, non le ha lette con molta precisione, comunque esce l'obbligo secondo Rabbi Yosef. Mentre invece Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice lo yatza, non esce l'obbligo. Questo è il secondo caso della Mishnah. Terzo e ultimo caso della Mishnah è il seguente. Hakore è colui che legge i versetti dello Shema, però non ha il problema di non sentire, li sente. Non ha il problema di non scandire bene, le scandisce bene. Ha un altro problema. Le mafrea, le legge a ritroso oppure in disordine. Non nell'ordine che la Torah scrive i versetti che li troviamo nel libro. Legge prima Vayam Shamoa e poi Shevat Et Hashem Elokecha, oppure anche nel brano stesso, prima un versetto okay. E poi l'altro. Le mafrea, a ritroso, lo yatza, non esce l'obbligo, e su questo non ci sono discussioni. Altra cosa. Non sta leggendo. Non sta leggendo. Su questo sono tutti d'accordo che non si esce l'obbligo, effettivamente. Invece, kara veta'a, se uno ha letto lo Shema e ha sbagliato nella lettura, per esempio ha saltato una parola, o un versetto ha saltato, non si è accorto, e poi si è accorto che ha saltato una parola o un versetto, la Mishnah dice semplicemente cosa deve fare, yachazor la makom sheta'a, torni al punto in cui ha sbagliato, cioè se si accorge di aver saltato una parola, torna a quel versetto, e ripete da lì in poi, oppure... Dall'inizio del versetto dove è compresa la parola saltata. Esatto. O dalla parola stessa. O dalla parola stessa. C'è in realtà una discussione nella halakha se deve iniziare dalla parola stessa o dal versetto... Che la comprende. Che la comprende. È meglio iniziare dal versetto che la comprende. Così non sbaglio. Dà il senso alla frase che ripete. Esatto, e questo, la Mishnah con questo ci sta dicendo che questa cosa non è considerata una interruzione nel mezzo, insomma, perché non bisognerebbe interrompere. Allora, se già l'hai letto e lo rileggi, potrebbe essere considerata un'interruzione. La Mishnah ci sta dicendo che non è considerata un'interruzione perché così recuperi ciò che hai sbagliato e ciò che hai saltato e torni indietro. Ok? Allora abbiamo visto nella Mishnah tre casi. Il primo caso della Mishnah, che adesso la Gemara approfondirà, analizzerà, faremo solo la prima parte oggi e proseguiremo la prossima volta. Il primo caso è chi legge lo Shema in maniera silenziosa, non sente lui stesso al proprio orecchio, come dice la Mishnah, le proprie parole che sta pronunciando dello Shema. Allora il Tana Kama, il primo maestro, ha detto che Yatza, esce l'obbligo. Rabbi Yosef ha detto che non esce l'obbligo. Guardiamo cosa dice la Gemara. Mai tama ad Rabbi Yosef. Qual è la motivazione per la quale Rabbi Yosef ritiene che non esce l'obbligo? Per quale motivo? Cioè, in effetti, la Gemara dà per scontato che forse ha ragione il Tanakama. Comunque, lo Shema l'ha letto, la mitzvah è di leggerla. Se tu mi vuoi dire che non esci l'obbligo, se non senti quello che stai leggendo, devi avere un motivo. Perché la lettura l'hai fatta, effettivamente. Torniamo alla parola. Keriat Shema. Oh, bravissimo. Esattamente. Quindi qualcosa di questo abbiamo già visto in precedenza. Vediamo cosa dice la Gemara. La Gemara dice, Mishum dichtiv. Visto che è scritto Shema. Shema vuol dire anche sentire, ascoltare. Allora... Il senso di questo Shema è anche Hashma le Osnecha, fai sentire al tuo stesso orecchio, ma Shata Mozi mi picha, ciò che fai pronunciare fuori uscire dalla tua bocca. Ok? Ma la stessa regola della Torah, scusala. Qual è la stessa regola? Nel senso che la Torah va pronunciata quando non si legge a bassa voce, senso si devono dire parole, no? Aspetta, cosa intendi per Torah? Quando una persona studia Torah in privato? Sì, si dice che bisogna pronunciare le parole. È diverso. No, il Sefer, intendi? Non sta parlando del Sefer. Non sei solo? Ho sentito che bisogna... Ti spiego? Sì. No, sto parlando con lui. è vero che c'è scritto anche nella Gemara e in molte altre fonti, che nel momento una persona studia la Torah, Aruha bechol ramach evarav, cioè la Torah deve essere sentita da tutto il corpo. Non basta leggere con il pensiero come si legge un qualsiasi libro, con gli occhi, ma bisogna pronunciare. Diventa anche un'azione, le labbra si muovono e le parole sono pronunciate. Questo è il modo ideale di studiare la Torah, ok? Ma non c'è una mitzvah specifica che devi leggere. Una regola. Nello Shema c'è una mitzvah, Keriat Shema, lettura dello Shema. Non c'è una mitzvah lettura della Torah. La Torah, il Talmud, i maestri ti spiegano qual è la maniera in cui si studia la Torah, bisogna pronunciarlo. Ma se uno non ha pronunciato, non è che non ha studiato Torah. Comunque ha studiato Torah, gli mancano degli elementi. Alcuni elementi nello studio gli mancano sicuramente se non lo pronuncia. Però comunque lo studio ce l'ha. Qui stiamo parlando di definire la mitzvah di lettura. Dove troviamo la mitzvah di lettura? Solo nello Shema. C'è un altro caso dove c'è una mitzvah di lettura esplicito nella Torah. Qualcuno si ricorda qual è? L'Amidah. L'Amidah non è esplicita nella Torah. Eh? L'Amidah, no? Anche l'Amidah non è esplicita nella Torah. Sede di Pesa. Allora, una cosa è il seder dove ve Anita ve a Marta, bisogna dire, è vero. E c'è un'altra cosa. C'è nella Terumah. Nella Terumah, nei Bikurim in particolare, quando si portavano le primizie al Bet HaMikdash, la Torah dice che bisogna recitare alcuni brani, che tra l'altro alcuni di questi brani sono menzionati anche nell'Agada di Pesach. Arami, Oved, Aviva, Yered Mitzrayma, e si ringrazia a Kadosh Baruch Hu partendo dall'inizio difficoltoso fino alla prosperità alla quale siamo arrivati, e questa è una cosa che va letta, va detta, va pronunciata nel momento in cui si portano i bikurim, le primizie. Però sono pochi i casi dove la Torah dice devi dire questo. Uno è lo Shema. Allora ci chiediamo, abbiamo letto, ora perché serve che senti anche? Allora lui dice Rabbi Yosè, perché il senso di Shema è che tu possa proprio sentire, non solamente leggere. Hashma le osnecha, fai sentire al tuo orecchio. Certo. Ok? Tu non lo dici, ma lo senti. Ora la Gemara dice, se la parola Shema vuol dire fai sentire al tuo orecchio, cos'è l'opinione del Tanakama che dice che sei comunque uscito l'obbligo anche senza averlo pensato, anche senza averlo sentito? Ora la Gemara spiega l'opinione del Tanakama. Vetanakama Savar, e il Tanakama, il primo maestro della Mishnah, è dell'opinione che cosa? Shema, che il senso della parola Shema, senso non letterale, che ci vuole far capire la parola Shema, non è che bisogna sentire col proprio orecchio, bensì Bechol lashon she'ata shomea. Shema vuol dire che la cosa, questa lettura è valida non solamente nella lingua originale, ma in qualsiasi lingua che tu capisci. She'ata shomea, che letteralmente tu ascolti. Tu puoi sentire tante cose, ma qual è la cosa che tu ascolti? Quella che capisci. Puoi sentire che si parla in Thai, per esempio. Però, se non lo capisci, lo senti solamente, non lo puoi ascoltare. Ascoltare Shema è possibile quando tu capisci quello che stai dicendo. Allora, con questo il Tanakama ci sta insegnando che secondo lui il Shema è inteso come senso di comprensione. Ovvero che se tu non capisci l'ebraico, puoi uscire l'obbligo della lettura dello Shema in italiano. Bechol lashon she'ata shomea, in qualsiasi lingua che tu capisci e tu ascolti, quindi. Ok? Ma qui non si sta parlando, scusa, del sentirsi con l'orecchio. Eh? Non si stava parlando del sentire, fra i due pareri, sentire con l'orecchio, non del tipo di lingua usata. Giusto, allora, il primo parere del Tanakama era che anche se tu esce obbligo. Anche se tu non senti con l'orecchio, esci l'obbligo. L'altro parere era di Rabbi Yosè, che ha detto non esci l'obbligo. Perché non esci l'obbligo? Perché c'è scritto Shema. Shema vuol dire che devi sentire col tuo orecchio. Allora, se Shema vuol dire devi sentire col tuo orecchio, cosa fa il Tanakama con questo insegnamento? E il Tanakama dice, no, per me non vuol dire devi sentire col tuo orecchio. Devi capire. Per me Shema vuol dire che devi capire. Di conseguenza, anche se non senti con l'orecchio, esci l'obbligo. Stiamo sempre parlando di quello. Non è che abbiamo cambiato tema. No, no. E quindi il dire in italiano potrebbe essere in italiano. Sì, ma l'avevamo già detto. Il dire può essere in italiano se Shema significa capire. Sì, ma sì. Ma se l'ha detto in italiano. Certo. Se capisci italiano. Se non è, non è, non siamo sei. Sempre nel tema. Anzi, proprio per... lo dobbiamo dire per spiegare l'opinione del Tanakama. Mi è sembrato che si fosse perso il riferimento. No. Il riferimento è sempre questo. Visto che lui applica l'insegnamento della parola Shema alla lingua, di conseguenza, nel caso nostro, della nostra Mishnah, dove stiamo parlando di non sentire quello che si dice, per lui si esce l'obbligo anche se non si sente, l'importante è che si capisce. Ma noi ci allontana proprio questo fatto di studiare la Torah in una lingua che non è l'ebraico, ci allontana dallo studio dell'ebraico, ci allontana da... Non stiamo dicendo che non devi imparare l'ebraico, la domanda è se tu hai... Questo è un inizio di... No. È sempre meglio dirlo in ebraico e capirlo in ebraico, certo. Questo è scontato. Lo impara e poi lo dici in ebraico. Esatto. Però studiare. Se uno ci mette 2 giorni a imparare l'ebraico, ma diciamo, come minimo, no? Con 2 giorni alla fine ci arriva. Vero, però il primo giorno è comunque obbligato a dire lo Shema. Certo. Questo è il punto. Lo dice e non lo capisce e lo va perché a imparare. Ora... Ma secondo me non è così fina, non aspetta. È finita così. No, non è finita, però la domanda è adesso... Rabbi Yosè, ok? Il fatto che si può leggere lo Shema in altre lingue è d'accordo anche lui? Oppure lui dice no, e la parola Shema ci insegna solamente che bisogna pronunciare ad alta voce e sentire quello che si sta dicendo, mentre invece per le altre lingue non sono d'accordo. È questo che sta dicendo Rabbi Yosè? La Gemara dice no. Anche Rabbi Yosè è d'accordo che nelle altre lingue è ugualmente valido lo Shema. E la Gemara ora spiega in che maniera lui capisce questo. Guardiamo il testo. Verabbi Yosè, mentre secondo Rabbi Yosè, tarte Shema Mina, tarte due insegnamenti trae dalla parola Shema. Shema Mina vuol dire si trae da questo. Non Shema Mina, non è un riferimento alla parola Shema Israel. Shema Mina vuol dire si trae da questo, si può capire da qui che ci sono due insegnamenti. Tarte, quali sono i due insegnamenti? Uno che devi pronunciare e sentire e uno che lo puoi leggere in qualsiasi lingua. Lui dice non è una contraddizione, la parola Shema può insegnarci entrambe queste halachot, entrambe queste idee. Ok? Io ho letto che bisogna anche stare seduti... E non in piedi quando si legge lo Shema. Questo è più concentrati. Questo è vero, l'abbiamo studiato nell'Alaha, che è bene fare lo Shema da seduti. Però se uno è in piedi, se uno è già in piedi, non deve, è meglio che non si siede subito prima dello Shema. Non deve cambiare, devi rimanere in piedi. Sì. Per caso ti trovi in piedi, devi... Cioè, quando noi diciamo che Shema vuol dire che si può leggere in qualsiasi lingua, questo ci fa anche capire che lo devi sentire al tuo orecchio, così secondo Rabbi Yosè, mentre secondo il primo Tana, no, ci insegna solamente che puoi insegnarlo in che puoi dirlo in qualsiasi lingua. Per quanto riguarda invece sentirlo all'orecchio, dice non è necessario. Sarebbe necessario, ma se non l'ha fatto è comunque uscito l'obbligo. Non è essenziale. Ok? Ok, oggi scusatemi che sto un po' male, concludiamo qui e se Dio vuole riprenderemo il discorso prossima volta. Grazie.